lunedì. Ah, okay, siamo. Ah, ma nome e cognome o? Solo nome. Ah, siamo Emma, Elena e Yael. Sì, e basta. Bene, il vostro, potete raccontarci brevemente la vostra idea? Allora, subito i miei compagni hanno detto che volevano un po' di colore e volevano introdurre tantissimi temi perché comunque, diciamo, vabbè. Guarda, ragazzi, ragazzi, loro parlano voi, voi parlerete a loro. Subito mi hanno chiesto di mettere colore e vivacità, vivacità, no? Perché comunque non c'è nulla lì dentro. Di non escludere nessuno, quindi di creare un posto che fosse adatto per tutti, però introdurre tutti, questi, tutti i temi anche dell'arte, diciamo, come la musica o in generale, è stato un po' complicato. Allora abbiamo deciso di mettere innanzitutto un punto che dei tavoli, che sono le cose che permettono alle persone di stare insieme, però non dei tavoli quadrati perché era troppo banale e perché spesso delle persone agli estremi vengono escluse, quindi abbiamo messo dei tavoli un po' irregolari, no? Non circolari ma irregolari, un po' strani. Abbiamo collegato il tutto con un sentiero, un semplice che, non lo so, ci sta stare carino, ma non lo so. E poi mi ha chiesto pure di metterci un lago, ho detto, non ci sta lì dentro, quindi abbiamo messo un piccolo fiumicino che passa in mezzo a quello che è il percorso per raggiungere tutti i tavoli e con, vabbè, un po' di vita dentro. Ci sono i pesci. Quello che abbiamo pensato, poi essendo che siamo di fronte, è diciamo il posto di fronte all'artistico, è di metterci un murale, solo che non c'è il muro, quindi abbiamo detto, per non rovinare diciamo il tutto, dato che la strada è un po' brutta, di fare un muretto basso, non altissimo, in cui si potesse in parte colorare, diciamo dipingere, farci un murale. E una parte invece per non rovinare quella che è, cioè perché è un muro un po' cemento, un po'... di aggiungere il giardino verticale, che è una cosa che viene molto utilizzata nelle scuole, per esempio nella scuola media c'era e l'abbiamo fatto noi, ed è una cosa molto carina perché cioè, dà un senso di, a me dà un senso di casa e niente, basta. E poi gli alberi? E beh sì, un po' più di alberi perché c'è un po' troppo sole, ragazzi. No, sono alberi da sono di ombra. Alberi da frutta sono. No, il problema, io avevo bocciato l'idea degli alberi da frutta perché se Gloria ha fame. Gli alberi da frutto, specialmente quelli che vengono utilizzati per la vita urbana nelle città, eccetera, non sono gli alberi da frutto veri, perché mettendo gli alberi da frutto con la strada a fianco non sarebbero comunque buoni, perché verrebbero acidi, cioè i frutti verrebbero acidi, quindi non si può fare. A meno che non si voglia fare un. Allora niente, ma cosa fiori? Beh, mio padre è agronomo. Ah, vabbè. Ma sì, ma si mangia la frutta che ci sono bello! Grazie! Siamo stati 2 minuti.